Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio. Oggi ritorniamo a parlare della bolletta della luce, della bolletta elettrica. Perché? Perché sono passati quasi 3 mesi dal passaggio alla tariffa bioraria, cioè la tariffa differenziata per fasce orarie stabilita dall'autorità del gas e dell'energia, e quindi le famiglie teoricamente dovrebbero aver iniziato a ricevere le prime bollette sulle quali si dovrebbe essere evidenziato l'effetto di questa novità. Una novità che ha riguardato tutti i consumatori che non hanno aderito al mercato libero. Molti hanno tentato di cogliere questa sfida, la sfida della bioraria, cercando di portare per quanto possibile, in relazione anche alle esigenze e alle abitudini familiari, dei cambiamenti alle proprie abitudini di consumo, come per esempio fare più lavatrici e lavastoviglie di sera. Oggi ribadiamo un po' i termini della questione per capire se sia stato già possibile intercettare un trend rilevante di risparmio nella bolletta, anche se non è che ci si aspettasse chissà che riduzione, che rivoluzione, perché comunque l'introduzione di questa bioraria sta avvenendo in tempi piuttosto graduali. E però magari qualcuno qualche vantaggio economico lo ha già notato, qualcuno invece avrà litigato a morte con il vicino di casa che fa andare la lavatrice tutta la notte. Allora, chissà com'è andata in questi primi 3 mesi. Intanto io vorrei che voi ce lo raccontaste al nostro numero verde all'800240024, oppure scriveteci al 349-238-6666. Stamattina vi farò confrontare intanto con l'ingegnere Alberto Grossi, direttore consumatori e qualità del servizio dell'autorità per l'energia elettrica e il gas. Ingegner Grossi, bentornato a Salva Danaio, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. E un bentornato anche a Marco Bulfon, esperto di indagini di mercato per Altro Consumo, bentornato anche lei. Buongiorno. Tra l'altro Altro Consumo sta facendo un lavorone proprio sul tema delle bollette, delle comparazioni delle tariffe, e quindi ci faremo raccontare anche loro come stanno un po' monitorando tutto il settore, anche alla luce delle problematiche che sta sollevando invece il passaggio per molti consumatori proprio alle nuove offerte del mercato libero. In realtà la liberalizzazione ormai è in corso da 3 anni, ma i problemi non sono scomparsi del tutto, e di questo è anche ben consapevole l'autorità. Vi ho ricordato i numeri per intervenire, adesso rapidamente altri numeri prima di entrare nel vivo della nostra trasmissione. Sono quelli della borsa, che oggi è partita molto male con ribassi di oltre un punto su tutte le piazze finanziarie. Adesso vedo già che c'è un miglioramento netto, c'è addirittura Parigi in calo contenutissimo, -0,13%, Francoforte è passata in positivo, +0,16%, Londra ancora negativa per lo 0,21%, e Milano sta sulla parità, non si muove, ma anche Milano perdeva più di un punto, quindi miglioramento netto dalla primissima parte della seduta. Stanno acquistando stamattina gli investitori soprattutto titoli Exor, +1,76%, Azimut +1,60%, Finmeccanica +1,35%, Autogrill e Geox in rialzo di un punto. Segno meno invece che rimane sui titoli che ieri hanno avuto le migliori performance: Buzzi Unicem -1,61%, Italcementi -0,56%, abbiamo un calo dell'1,43% anche per Pirelli, Mediaset perde un punto e Intesa perde lo 0,8%. Ieri l'euro sul dollaro era ripiombato sopra quota 1,35, quindi confermando i massimi d'aprile, ha ritracciato un po' nelle ultime ore, ora siamo a 1,34,74. Oggi terremo sotto osservazione il mercato americano perché arriva l'indice di fiducia dei consumatori elaborato dal Conference Board, e poi arriva anche l'indice dei prezzi delle case, l'indice Schiller, un indicatore immobiliare molto importante, per cui attendiamo l'apertura di Wall Street. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi, parliamo di nuovo della nostra bolletta della luce. Sono passati quasi 3 mesi dall'esordio della tariffa bioraria per il consumo di energia elettrica, e con l'arrivo delle prime bollette molte famiglie staranno cercando di capire, calcolatrice alla mano, se e quanto sono riuscite a risparmiare. Ma cos'è cambiato con il passaggio a queste tariffe? Con la bioraria la corrente è meno costosa tra le 19 e le 8 del mattino dei giorni feriali e del sabato, oltre che nelle domeniche e in tutti gli altri giorni festivi. Questo per circa il 90% dei consumatori, quelli che non hanno aderito ad alcuna offerta del libero mercato e che continuano quindi a pagare l'energia elettrica in base ai prezzi fissati ogni 3 mesi dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Con la bioraria si ottiene un reale risparmio? La risposta a questa domanda dipende da molti fattori. Intanto, nei primi 18 mesi, lo scarto tra le due fasce non supererà il 10% per rendere più graduale il passaggio. E in secondo luogo, è determinante capire se una famiglia sia in grado di adattare realmente le proprie abitudini quotidiane in modo da approfittare delle fasce convenienti. Lavastoviglie e lavatrici serali, quindi, possono rivelarsi davvero utili se c'è la possibilità di acquisire le buone abitudini e mantenerle con costanza. 800 24 0024, il numero verde per i vostri interventi. Vedo già numerose prenotazioni al nostro centralino, soprattutto di chi ritiene che effettivamente, insomma, questo passaggio sta determinando molti problemi condominiali, ed è esattamente quello che ci eravamo detti anche nelle puntate preparatorie rispetto a questa trasformazione. Volevo andare subito all'ingegner Grossi, perché ovviamente ancora ingegnere molto presto per poter stabilire dei bilanci rispetto a questa situazione. Si può però quantificare teoricamente il numero delle famiglie che ricadono sotto questa sotto la campana della bioraria, in sostanza, e sì, credo che si possa andare ad esclusione rispetto alle famiglie che hanno aderito al libero mercato. Ma diciamo che il dato è ancora leggermente diverso. Diciamo che ad oggi sono poco più di 13 milioni le famiglie interessate dalle biorarie, e sono quelle famiglie che hanno già il contatore elettronico riprogrammato. Perché solo le famiglie che hanno questo tipo di contatore, che è in grado di misurare l'energia elettrica distinguendo l'orario di consumo, in quale fascia di consumo, può essere applicata la bioraria. E sono poi le famiglie che hanno ricevuto in bolletta i 3 preavvisi previsti dall'autorità. Ecco, allora la interrompo subito, perché c'era un'ascoltatrice, Elena da Roma, che ci scrive al 349-238-6666. È automatico per tutti o solo per chi ha accettato una clausola bioraria? Qui non c'è stato accettare nessun nuovo contratto, ingegner Grossi, giusto? No, viene preavvertito il cliente, questo con 6 mesi di preavviso, quindi per chi ha la cadenza normalmente di bimestrale della fatturazione, delle 3 bollette precedenti all'applicazione della bioraria, in modo da permettere al consumatore di verificare con attenzione come sono ripartiti i propri consumi, e questa ripartizione tra l'altro è indicata nella stessa bolletta, valutare se il consumatore è in grado di modificare le proprie abitudini di consumo, quindi spostando, come già si diceva nell'ottima scheda di presentazione, i consumi nelle fasce serali, e se del caso informarsi anche se vi sono delle offerte più convenienti sul mercato libero. Quindi 6 mesi di tempo per prendere consapevolezza di qual è il proprio profilo di consumo e di cosa offre in alternativa il mercato libero. Anche perché, insomma, è ovvio che la trasformazione debba avvenire, il passaggio, in maniera graduale, perché poi ogni famiglia cambia mese per mese magari le proprie abitudini, arriva un bambino, insomma, si allarga la famiglia, possono cambiare tante cose, quindi anche l'utilizzo degli elettrodomestici si può drasticamente ridurre, come può invece improvvisamente aumentare. Allora, altro consumo, Marco Bulfon, giudicate che il passaggio alla bioraria sia stato condotto con una comunicazione trasparente e sufficiente da parte di tutti gli addetti ai lavori, quindi operatori che erogano ovviamente servizi elettrici, l'autorità stessa? Cosa vi dicono le famiglie? Ma le regole che ci sono, direi, delle ottime regole, però devo dire che a noi non stanno pervenendo molte segnalazioni su problemi relativi a questo passaggio, quanto, come dire, segnalazione ancora di non comprensione di quello che sta accadendo. Molte persone ci chiedono ancora che cosa sia la bioraria, molte persone ci chiedono perché non sono passate alla bioraria, oppure al contrario perché sono passate alla bioraria. Per esempio, quali sono i criteri in base ai quali si passa alla bioraria? Moltissimi non li hanno molto chiari. Quello che diceva poco fa l'ingegnere Grosso è limpido. Giusto per dare qualche indicazione pratica, per capire se si passerà o meno, bisogna guardare sulla bolletta se è scritto, in corrispondenza del nome della tariffa, ci dovrebbe essere la parola monoraria e ci dovrebbe essere la sigla D2, domodossola 2, oppure D3. Cioè domodossola 3. Questo indicano? Queste indicano il fatto che si sta utilizzando la cosiddetta tariffa di maggior tutela, quella regolata dall'autorità garante. Se no, significa che siamo sul mercato libero o che abbiamo un altro tipo di tariffa già bioraria. Ovviamente se siamo sul mercato libero è perché lo abbiamo scelto di esserci. È auspicabile, speriamo, naturalmente. Ecco, esatto, perché lì si aprirebbe l'altro problema delle modalità di sottoscrizione dei contratti, ma questo è un altro tema. Dopodiché controllare, appunto, come si diceva, il fatto che nella bolletta, nelle ultime bollette degli ultimi 6 mesi, sia stato indicato il consumo nelle 2 fasce orarie, quella cosiddetta F1, viene indicata solitamente così, F1, che indica il consumo dalle 8 alle 19 durante la settimana, e la cosiddetta F23, che è quella che indica il consumo nel weekend e nelle ore serali. Allora, a proposito di bioraria, quella di cui stiamo parlando questa mattina è, diciamo, quella che disciplina l'autorità del gas e dell'energia, che riguarda tutte le famiglie che non hanno aderito alle offerte del libero mercato. Ma molte aziende del settore avevano già proposto l'adesione dei piani tariffari secondo le regole della bioraria. Allora, vi faccio sentire Antonio dalla provincia di Monza, perché in realtà questo passaggio l'ha fatto già da un paio d'anni senza grande soddisfazione. Antonio. Buongiorno. Sì. Sente? La sento benissimo, Antonio, ma da dove ci sta chiamando? Da una caverna? Chiamo da Monza. ci dica rapidamente che devo già andare in pausa. Io sono passato da 2 anni con Enel Energia, però non ho riscontrato nessun miglioramento rispetto a quello che pagavo prima, nonostante quello che dicono, diciamo. Sì, ma ha fatto la bioraria o è passato al libero mercato? Perché sono due cose diverse, Antonio. Sono passato al libero mercato e ho fatto la bioraria. Con loro. Ha cambiato anche le sue abitudini di consumo? Lavatrici di notte, accensione degli elettrodomestici? Sì, festivi, le facciamo durante i festivi, però, ripeto, quello che facevamo prima facciamo adesso. Ma non è cambiato mica tanto. No, però qualche comportamento forse doveva cambiarlo. Antonio, magari adesso vediamo di spiegare un po' meglio le sue insoddisfazioni, per capire se realmente ha cambiato le sue abitudini, perché sennò è inutile sottoscrivere la bioraria. Questo mi pare fondamentale da capire. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Ritorniamo a sentirvi tra pochissimo. Allora, oggi a Salvadana io ritorniamo a parlare della bolletta della luce, rifacendo il punto su questo passaggio che abbiamo segnalato, naturalmente lo abbiamo seguito molto attentamente nei mesi passati, alla tariffa bioraria, cioè la tariffa differenziata per fasce orarie, ed è stata stabilita appunto questa novità. Ne abbiamo parlato molto dell'autorità del gas e dell'energia, però ha generato anche un po' di confusione, perché qualcuno ritiene che sia una cosa che rientra nell'ambito delle opzioni offerte dal mercato libero, e insomma c'è ancora molta confusione fra le famiglie, e soprattutto c'è chi fa un po' di fatica a cambiare le proprie abitudini di consumo degli elettrodomestici, perché si scontra con il vicino di casa e quindi chiaramente non si possono attivare le lavatrici per tutta la notte. Ma c'è anche un altro problema, ne stavo parlando adesso a microfoni spenti con Marco Bulfon. C'è chi ritiene, Bulfon, che per esempio in famiglie molto numerose, quando la vitalità della casa così si riattiva improvvisamente fra le 7 e le 8 di sera, perché tutti sono rientrati, allora si comincia a cucinare, si deve mettere sulla lavatrice, la TV è accesa, c'è una concentrazione di consumo enorme. Insomma, la bioraria, allora, in quel caso che tipo di vantaggio può portare ad una famiglia? Dunque, allora, anzitutto è evidente che il fatto di utilizzare una tariffa bioraria ci induce a modificare le nostre abitudini di consumo, quindi da questo punto di vista è evidente che ci si richiede uno sforzo. Lo sforzo viene richiesto non tanto per risparmiare, in verità la tariffa bioraria non porterà risparmi effettivi, anzi il rischio è che si paghi di più qualora si consumi troppo nelle ore diurne, e anche nel caso comunque si consumasse nelle ore diurne, soprattutto in questo periodo, come si dice, transitorio, la differenza di costi può andare nell'ordine delle poche decine di euro nell'arco di un anno, quindi non è così significativo. Il vero punto è che quello che ci viene richiesto perché è il sistema energetico che ne ha bisogno. Di sovraccaricare, cioè, di consumi la giornata, esatto, in sostanza. Durante il giorno è necessario produrre una quantità di energia anche, come dire, da fonti meno efficienti, e quindi chi può utilizzare l'energia in orari in cui la domanda di energia è minore aiuta il sistema ad essere più efficiente. Ingegner Grossi, e questa è proprio, come dire, la base di tutta questa, mi viene da dire, battaglia, ma non è il termine giusto, perché è una battaglia che effettivamente non deve dare addosso a nessuno, ma che ci interessa a tutti per salvaguardare tutto il nostro ambiente. Se vuole una considerazione su quello che abbiamo detto, ma le chiederei anche di darci una mano a rispondere all'ascoltatore che ha chiamato da Monza, che ha già sottoscritto, dice lui, una tariffa bioraria, perché il mercato libero aveva aperto anche queste opzioni, molti operatori del settore appunto avevano dato questa opportunità ai consumatori e agli utenti di energia, e però insomma lui dice: io effettivamente tutti questi gran vantaggi economici non li ho notati. Sarà stata colpa sua, ingegner Grossi, che non ha prodotto grandi cambiamenti di consumo nella sua abitazione? Ma sicuramente il cambiamento delle abitudini di consumo sono un presupposto per quello che serve a utilizzare a pieno i vantaggi della bioraria, e su questo però da questo mi riallaccio per il tema dell'informazione, che è già uscito anche dai precedenti interventi. Allora, l'informazione è un tema importantissimo per far capire ai consumatori le novità portate da questa novità, da questo cambiamento della bioraria. Noi abbiamo attivato lo sportello del consumatore, che è questo numero verde a disposizione di tutti i consumatori, 800 166 654, che dà risposta su tutti i settori, inclusa la bioraria. Qua abbiamo un bel punto di osservazione, perché nel mese di settembre sono state il 9% le chiamate che hanno riguardo chiamate di informazione, richieste di informazioni sulla bioraria, su un totale di quasi 80.000 telefonate pervenute al nostro call center. E devo dire che da queste chiamate risulta che non ci sono particolari problemi, sono segnalazioni che non sono reclami, segnalazioni di problemi, quanto una richiesta di informazioni per meglio capire le opportunità offerte dalle biorarie. Quindi io mi sentirei di tranquillizzare, nel senso che la novità è importante, c'è gradualità, è giusto che i consumatori comprendano, e anche, va detto, è un primi tre mesi che colgono anche il periodo estivo, e che quindi dal punto di vista dei consumi potrebbe essere non così significativo. Certo. Meglio aspettare i prossimi tre mesi, dove entriamo in una fase di vita più normale delle famiglie. E però con i condizionatori, ingegner Grossi, mica tanto, insomma, poteva essere anche un test interessante quello estivo. Sì, però riguarda ancora pochi utenti e non hanno ancora i consumatori evidenza di quello che è l'effetto dei propri cambiamenti. Voglio dire, la misura della risultato che comunque dagli strumenti che abbiamo messo a disposizione, il pesa consumi piuttosto che il trova offerte per andare a cercare le migliori offerte del mercato libero, sono comunque variazioni che si aggirano tra i 5 euro all'anno fino a un massimo di 10 euro all'anno, proprio perché c'è questa gradualità che vuol mettere al riparo i consumatori da maggiori costi che dovrebbero essere una situazione del tutto marginale rispetto alla situazione precedente. Quindi è importante questo come periodo di osservazione. Ritengo che sia ancora un po' presto anche per i consumatori per capire gli effetti dei propri cambiamenti nelle abitudini di consumo. Fatto bene a citare il pesa consumi, perché poi mi piacerebbe capire come funziona questo strumento, che vorrebbe aiutare a capire i consumatori quanto influiscono gli elettrodomestici sui consumi nei momenti in cui l'elettricità ha un costo più elevato. E poi vorrei anche sentire, poi, ingegner Grossi, se lo ritiene, un commento sull'applicazione della bioraria, che è già in corso da parte di alcuni operatori. Tra l'altro su questo c'è anche un altro ascoltatore, che è Giuseppe da Lodi. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno a tutti, a tutti i suoi ospiti. Io da un po' di tempo che sto utilizzando la bioraria, almeno da un anno, almeno tramite il gestore normale. Qualche piccolo risparmio sicuramente c'è, abbiamo cambiato sicuramente le nostre abitudini con lavatrici, lavastoviglie e quant'altro. Quindi io sicuramente lo trovo positivo, ma aspettavo comunque una differenza di costi un po' più marcata, più evidente, anche perché c'è il consumo dell'energia, poi leggendo la bolletta ci sono un mucchio di altre voci che concorrono e fanno capire abbastanza poco il risparmio effettivamente che c'è. Credo che lei, Giuseppe, abbia toccato proprio il punto nevralgico di tutta la questione. E qui, insomma, come dire, capire le modalità di applicazione delle tariffe biorarie, Marco Bulfone, non sarebbe neanche tanto complesso, se non fosse che in realtà, quando apriamo la busta con la bolletta della luce dentro, abbiamo ancora purtroppo troppi fogli da leggere, e quindi ci scoraggiamo anche nel voler andare invece a magari cercare di interpretare le cose più banali, come quella dell'applicazione della bioraria, che non era niente di così trascendentale. No? Certo, la presenza di molti fogli è prevalentemente dovuta al fatto che una parte consistente delle famiglie italiane continua a non avere ancora la telelettura, per cui una parte dei propri consumi sono, come si dice, stimati, e questo significa che il gestore è tenuto a riportare i consumi di più mesi per valutare quello che è stato il consumo effettivo. Fare sempre una situazione presunta di consumo. Altra è la questione invece della composizione della tariffa, che rende estremamente difficile per gli utenti valutare davvero se ha risparmiato o meno, se ha fatto la scelta giusta o meno. Questo perché il prezzo che ci viene indicato nel momento in cui sottoscriviamo un contratto è sempre solo una parte della tariffa. C'è sempre una parte che è comunque regolata e che ogni 3 mesi l'autorità comunque aggiorna. Questa componente, peraltro, ha la particolarità di essere una componente a scaglioni. Quindi, a seconda che si consumi di più o di meno, ogni kilowattora, cioè ogni unità di energia che si consuma, può costare di più se consumiamo di più. E quindi si innestano tutta una serie di meccanismi e di complicazioni che rendono estremamente difficile per gli utenti poter fare delle comparazioni. Da questo punto di vista, Atroconsumo sul proprio sito cerca di proporre una serie di strumenti proprio da una parte per fornire le informazioni e anche per aiutare a fare le proprie scelte nel momento in cui si vuole cambiare. Anche a voi avete un comparatore di tariffe che forse è stato il primo in Italia ad essere strutturato, insomma poi sono arrivati tanti altri privati ad organizzarsi nello stesso modo. Ribadisco, c'è anche quello istituzionale, chiamiamolo così, il trova offerte dell'autorità dell'energia, e però insomma l'importante è capire come poter inserire i dati corretti sui nostri consumi. È lì che mi sa che ci sono un po' di dolori, giusto Buffon? Certo. Da una parte perché la bolletta deve contenere tutte le informazioni e ancora non tutte le famiglie hanno questo tipo di informazione, e questa è la ragione per la quale ancora non tutte le famiglie sono passate alla tariffa bioraria transitoria. E poi ci sono una serie di problemi legati al modo in cui la tariffa ci viene proposta di volta in volta dai vari operatori, per cui ci si rende particolarmente difficile la possibilità di confrontare il risultato della nostra tariffa attuale, dei nostri consumi attuali, rispetto a quello che potremmo spendere se cambiassimo operatore. Barbara da Verona, vorrei sentirla prima di andare ai suggerimenti per chi è in viaggio. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno ai suoi ospiti. Io volevo segnalare questa cosa. Io è da praticamente 4 mesi, per cui 2 bollette, che ricevo dai nostri fornitori, che sta per arrivare, diciamo, la tariffa bioraria, selezionando, diciamo, l'importo eccetera, però il problema è che mi viene segnalato che questa sarà attiva tra 4 mesi. Ma lei ha aderito ad un'offerta d'Italia invece sia già attiva. Certo, no, ma ha aderito ad un'offerta di libero mercato. Se ne valga la pena, anche se noi siamo riusciti a concentrare circa l'80% dei consumi nella fascia quella, diciamo, economica. Sì. E risultato, però vorrei capire come mai la gradualità effettivamente verrà attivata a partire tra 4 mesi, non sia già attiva. Ecco. Certo, ingegner Grossi, c'è stata anche una gradualità territoriale nell'applicazione della nuova bioraria? Io non me lo ricordo questo, sì, quando ne ho parlato con lei. Sì, rispondo spiegando all'ascoltatrice. Il fatto di farlo fra 4 mesi dipende dal fatto che le è stato installato solo ora un contatore, oppure che solo ora è stato riprogrammato per riuscire a misurare i consumi per le diverse fasce. Allora, fra 4 mesi è proprio un obbligo imposto dall'autorità per impedire al fornitore di passare troppo velocemente il consumatore alla tariffa bioraria transitoria, per dare il tempo a lei e a tutte quelle famiglie che si trovano nella stessa situazione di guardarsi attorno, verificare i propri consumi. E ho sentito che lei ha spostato l'80% in F2-3, quindi sicuramente le conviene la bioraria. Barbara, c'è ancora con noi? Sì, vi sto ascoltando. No, ecco. Volevo sapere appunto se aveva se riscontrava la questione del contatore, della riprogrammazione del contatore. Che verranno installati dei contatori elettronici, però a tutt'oggi abbiamo ancora quelli vecchi, voglio dire, per cui non ci è stata data nessuna informazione. E un'altra cosa che è abbastanza difficile, ma al di là dei consumi, è che per fare i calcoli della bolletta del gas o della luce ci vuole una laurea in astrofisica nucleare, sì. Dei costi che sono addirittura pazzeschi. Barbara, le posso chiedere qual è il suo operatore, l'operatore che eroga l'energia elettrica nella sua zona? ADSM Energia di Verona, che è, diciamo, il fornitore, quello ufficiale, una partecipata del comune di Verona. Perché così almeno sollecitiamo l'ingegner Grossi disposti ad andare un po' a dare una controllata alla redistribuzione dei contatori in quest'area e come mai questa azienda si trova a farlo così in ritardo. Bulfone, sì, mi faccia sentire i suggerimenti per chi è in viaggio. Allora, il caso di Barbara da Verona, Marco Bulfon lo definiva emblematico di situazioni che secondo lei possono teoricamente essere abbastanza diffuse? Ma diffuse non lo so, certo è un caso significativo a cui fare attenzione. Il fatto che la signora abbia ancora il contatore vecchio, quindi presumo il contatore meccanico, come si dice, mi induce a pensare che in questo momento non è possibile con il suo contatore misurare i due consumi nelle due fasce orarie. E siccome ha parlato del fatto che il suo passaggio avverrebbe tra 4 mesi, questo non dovrebbe essere possibile, perché lei dovrà ricevere comunicazioni per 6 mesi dei suoi consumi nelle due fasce. Quindi fino a che il suo contatore non è stato modificato, il passaggio non potrà avvenire se non 6 mesi dopo l'avvenuto cambiamento del contatore. Aggiungo un piccolo consiglio: se davvero i suoi consumi sono all'80% in fascia virtuosa, serale, sì, allora alla signora può convenire, qualora sia possibile, passare addirittura alla bioraria a scelta, perché, e non attendere la transitoria, perché in quel caso il risparmio tra le due fasce è ancora maggiore. Quindi passare al libero mercato senza attendere la situazione transitoria che sta gestendo l'autorità? In verità l'autorità propone due tipi di tariffe biorarie. Ce le facciamo dire dall'ingegner Grossi, se no gli togliamo la parola di bocca. Ingegnere, buongiorno, la risalutavo di nuovo, si figuri un po'. Allora, no, magari se vuol commentare ulteriormente il caso della nostra ascoltatrice di Verona. No, condivido quello che diceva il collega di Altro Consumo, dico anche che questa azienda con altre è già sotto osservazione da parte dei nostri uffici, perché abbiamo anche fatto delle istruttorie e stiamo richiedendo informazioni per verificare che sia correttamente applicata la regolazione e quindi l'introduzione della bioraria. Ma cosa può essere riconducibile questo loro ritardo? No, qui il problema non è tanto il ritardo quanto il fatto che hanno sbagliato a mandare questo avviso, se effettivamente, come dice la signora, ha un misuratore ancora meccanico, il contatore vecchio. Non c'è dubbio, quindi questo è un errore e quindi dobbiamo capire cosa è successo. Come ripeto, abbiamo già delle indagini in corso e andremo ad aggiungere anche questo caso. Ecco, l'importante è comprendere che in automatico viene applicata la bioraria transitoria, che quindi è quella che dà una differenza di prezzo sulla parte materia prima, che incide per circa il 40% del prezzo finale, del meno più 10%, no? La tariffa bioraria richiesta è quello che invece dà il delta prezzo effettivo, che è maggiore. Se effettivamente il consumatore ha più dell'80% nell'F2-3, è interessante e può essere interessante per lui passare alla bioraria, con questo per onestà va detto, col fatto che poi non potrà ritornare nella bioraria transitoria. Quindi io normalmente suggerirei cautela, nel senso che è meglio magari fare un periodo di prova con la bioraria transitoria e poi, una volta verificato ulteriormente questa differenza di consumo, si può con maggiore serenità e tranquillità passare alla bioraria richiesta. Per fare la bioraria richiesta, ingegner Grossi, bisogna comunque fare un'esplicita richiesta, mentre il passaggio alla bioraria di prima è automatico, la transitoria è automatico. Per fare invece a quella richiesta? Al proprio fornitore. Bisogna chiederlo esplicitamente al fornitore. Al proprio fornitore, che quindi è tenuto poi ad applicare quella richiesta. Senza oneri, mi auguro. Senza oneri. Benissimo. Bianca Maria da Vicenza. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io volevo dire che ho cercato di andare incontro a questa a questo uso di energia durante le ore serali, durante le festività, però anche per una questione etica, non solo per una questione di risparmio, che come ho capito non c'è da aspettarsi di risparmiare granché. Solo che stando nell'Italia del Nord e andando incontro alla stagione invernale, mi domando, io non è che posso fare per esempio le lavatrici in qualsiasi momento, devo anche guardare com'è il tempo altrimenti dovrò procurarmi un'asciugatrice. E quindi, lei dice tutto quello che risparmio facendo la lavatrice di notte. Vabbè, allora speriamo intanto che Vicenza quest'anno la meteorologia sia clemente, Bianca Maria. Però lei ha ragione, perché sono proprio poi queste le perplessità che tutti hanno: la litigata con il vicino di casa, ovviamente un condominio particolarmente rumoroso, perché se tutti si mettono a fare la lavatrice alle 7:30 di sera, potete capire quanto possa tremare un edificio. E poi le condizioni del tempo, Buffon, io credo che siano proprio queste le perplessità della vita pratica. Certo, ma da che poi ci punto costringono di... a non guardare con positivamente a tutte le novità. Però anche da questo punto di vista, intendiamoci, non è vietato fare la lavatrice durante il giorno, ci costerà di più. E da questo punto di vista dobbiamo anche imparare a riconoscere che c'è un elemento di giustizia in questo, nel senso che quell'energia che noi utilizziamo in quel momento costa di più a tutti. E quindi quello che eventualmente non paghiamo noi lo pagherà qualcun altro, e quindi che quell'energia ci costi di più in quel momento ci sta. Altro è il fatto che il mercato sappia proporre delle tariffe che siano comprensibili dagli utenti e siano davvero vantaggiose per gli utenti. Teniamo conto che sul mercato libero ancora oggi ci sono delle tariffe monorarie. Se noi le preferiamo, basta andare sul mercato libero e sottoscrivere una tariffa di questo tipo. E ancora altri ascoltatori, io veramente oggi sono contenta perché sono arrivate tantissime telefonate e tantissimi messaggi, segno che abbiamo colto nel segno, scusate il gioco di parole, segno che su questi temi dobbiamo andare molto più di frequente. Sentirei l'ultima considerazione di una ascoltatore. Abbiamo Giancarlo da Udine che aspetta da un pochino. Giancarlo, buongiorno. Insomma, come vi comportate a casa vostra? Consumatori virtuosi oppure elettrodomestici a gogo tutta la giornata? No, buongiorno a lei innanzitutto, a tutti quelli che sono in ascolto. Io, guardando le ultime bollette che mi sono arrivate dall'Enel, anche l'ultima l'altro giorno, ho potuto constatare che il 75% dei consumi ne passa 2-3. Però c'è da dire una cosa, che lo sconto è fatto solo sulla voce energia, sì. E che sulla fascia 3 c'è 2 centesimi di sconto sulla voce energia, mentre sulla fascia 1 aumenta di 3 centesimi. Quindi quello che io risparmio di notte non è compensato adeguatamente. Viene compensato di giorno, quindi io non ho visto nessuna differenza. Ma c'è il meccanismo del deterrente, naturalmente, detta proprio brutalmente. Giancarlo, devo concludere, io lascerei chiudere allora questa discussione all'ingegner Grossi, all'autorità, per capire insomma che cosa ha appreso anche di nuovo dalle perplessità di chi ci ascolta, anche questo meccanismo in sostanza di risparmio che si trasferisce automaticamente nel maggior aggravio per chi sbaglia orario, timing di consumo degli elettrodomestici. Ingegner Grossi. Sì, questo è, come diceva giustamente altro consumo, è un fatto di equità. È chiaro che se ci si posiziona intorno al 66-67%, lì c'è il punto di indifferenza. Se si va oltre si va a pagare di più, se si scende o meglio si sposta più del 66% dei consumi nelle fasce più economiche, l'F2-3, si può avere un qualche piccolo per oggi guadagno. Io credo che il grosso beneficio sia quello di rendere cosciente il consumatore del valore prezioso dell'energia elettrica e delle opportunità che offre il mercato, perché bisogna prendere consapevolezza delle proprie abitudini di consumo, provare a chiedere, e quello che viene confermato anche dalla chiacchierata di oggi, una grande necessità di informazione. Allora, tra l'altro, concludo solo con una considerazione di un ascoltatore su tutti: troppi accorgimenti per poco risparmio. Ripeto, lo dico ad Antonio da Torino come a tutti gli altri, comunque gradualmente risparmio dovrebbe essere in aumento, questa trasformazione sta avvenendo in maniera molto graduale. Noi ci ritorneremo, grazie a Marco Buffon e all'ingegner Grossi per essere stati con noi. Buona giornata a tutti, noi ci risentiamo domani.